È verosimile che l'Europa si sta muovendo molto lentamente rispetto a questa crisi, perché questa crisi energetica, a differenza di quella del 2022, non ha come punto focale l'Europa, ma l'Asia e il Medio Oriente, ovviamente, il Golfo Persico, dove in particolare questo conflitto si è generato. Ed è una politica, quella europea, molto di reazione, non c'è una forte iniziativa e per ora si è ricalcato molto quello che è stato il leitmotiv del 2022 e delle misure anche intraprese nell'anno successivo, nel 2023. Quindi una riduzione delle tasse sulla vendita, la compravendita di prodotti energetici, sull'elettricità, che è un altro dei punti cardine della politica europea, ma di strutturato, di misure strutturali, non si vede ancora una vera organizzazione e coordinamento. E questo oggettivamente deve spaventare perché siamo già oltre un mese dall'inizio della crisi. E in Asia già si vedono dei fortissimi impatti su quello che sono la disponibilità di fonti energetiche e di petrolio e gas naturale in particolare. Ma il problema è solo, tra virgolette, il blocco dello stretto di Hormuz o la questione più complessa? No, la questione ovviamente è molto molto complessa e va a impattare quelle che sono le vulnerabilità strutturali dei sistemi energetici di tutti i paesi che importano energia direttamente da quella regione o che sono strutturalmente dipendenti da un mercato che è sempre più internazionale, una vera e propria globalizzazione dei mercati energetici che continua come un processo da appunto decenni e che però è in seria discussione ora, proprio per le conseguenze della guerra attuale tra Stati Uniti, Israele e Iran e anche le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina che continua e che aggrava ulteriormente quelle che sono le conseguenze dell'attuale mancanza strutturale di petrolio e gas naturale che fluiscono da Hormuz e che è il più grande ammanco di risorse energetiche di fonti fossili della storia, perché mai si era registrato una mancanza così grande e così grave di petrolio soprattutto e di gas naturale nello stesso momento causati da un evento politico, geopolitico. Tu hai citato la guerra in Ucraina, in quell'occasione anche ad esempio il governo italiano, ma non solo, aveva come dire, indicato come strategia anche una diversificazione delle fonti, quindi non solo più la Russia. Questa cosa non è avvenuta, è avvenuta oppure comunque non è la strategia unica da mettere in campo? Sicuramente non è la strategia unica da mettere in campo ed è però stata la diversificazione delle importazioni di gas naturale, probabilmente la politica su cui l'intera Europa, non soltanto l'Italia, ha investito di più. E oggi ci troviamo con questi risultati, ovvero che abbiamo diversificato le importazioni, abbiamo guardato ad altri paesi capaci di esportare maggior volumi di gas e attorno all'Europa, nell'immediato vicinato, questa scelta è molto limitata, sostanzialmente a Norvegia, Algeria ed Azerbaigian, e invece guardando al mercato internazionale, gli unici due paesi che sono in grado, che sono stati in grado di esportare maggiori volumi di gas naturale liquefatto e che nei loro piani avrebbero incrementato ulteriormente queste esportazioni sono stati gli Stati Uniti e il Qatar. Oggi ci ritroviamo con la Russia, che è il secondo paese per esportazione di gas naturale liquefatto in Europa, preceduto dagli Stati Uniti, che sono il paese che copre la stragrande maggioranza delle importazioni di gas naturale liquefatto in Europa, e il terzo paese è il Qatar, ma oggi dal Qatar non arriva nulla e probabilmente non arriverà nulla per mesi, anche se domani la guerra dovesse finire, perché la riattivazione degli impianti che è stata imposta dalla chiusura di Hormuz prenderà settimane, ma allo stesso tempo il Qatar ha già avvertito l'Italia che non sarà in grado di esportare alcun volume di gas naturale liquefatto perché l'impianto di Ras Laffan, che è diciamo il gioiello vero e proprio del Qatar in termini energetici, dell'industria energetica del Qatar, è stato bombardato, colpito e danneggiato gravemente da missili balistici iraniani. E quindi per 3-5 anni, questa è la fascia di tempo che ad ora il Qatar ha reso noto, ci saranno degli ammanchi di volumi di gas naturale liquefatto sul mercato. E questo ovviamente impatterà non solo l'Italia, ma l'intera Europa e l'intero mondo, contando tutti i paesi che importano gas naturale liquefatto in un mercato appunto globale, ma che veramente globale non è, perché le guerre in atto, i conflitti in atto, i conflitti geopolitici e le tensioni geopolitiche stanno riducendo invece che aumentando la disponibilità di gas sui mercati. Sempre in questi anni in Europa sembra essere però stata accantonata anche un po' la questione della transizione energetica. Se fosse stata inseguita di più, ora il problema potrebbe essere attenuato, oppure le rinnovabili, come dire, non incidono particolarmente sul problema? Il punto è che anche la transizione energetica e la capacità di aumentare gli investimenti nelle fonti rinnovabili è impattata dalla guerra, e non è esente dalla guerra, perché è facile pensare che siano soltanto le fonti fossili a essere impattate. Questo non è vero, sono cambiati le politiche monetarie di molti governi e la disponibilità di finanziare larghissimi investimenti nelle risorse rinnovabili è stata osteggiata dalle conseguenze della guerra. È più difficile investire nelle rinnovabili in Europa, e allo stesso tempo le fonti rinnovabili dipendono da materie prime che allo stesso tempo sono affette dalle tensioni geopolitiche, e quindi è diventato più costoso e più rischioso investire nelle rinnovabili. L'Europa ha investito davvero enormi quantità di denaro nel corso degli ultimi due decenni nella transizione verso fonti a basso impatto carbonico. Il punto è che l'ho fatto il mercato, con un'aspettativa di ritorni economici stabili, sicuri e nel lungo periodo. Bene, questo non è più sostenibile, perché le tensioni internazionali e gli impatti economici, energetici e finanziari hanno cambiato le strategie dei mercati e anche degli attori sui mercati. Oggi i ritorni più importanti vengono dalle fonti fossili, e molti di questi attori che erano prima interessati a fonti rinnovabili oggi sono interessati nuovamente alle fonti fossili, comprese anche molte compagnie energetiche che nel corso degli ultimi 20 anni si sono ammantate della volontà di investire in fonti a basso impatto carbonico e che oggi stanno esplicitamente ritornando all'oil and gas, proprio perché i ritorni economici sono più importanti. Dobbiamo aspettarci conseguenze, come dire, per quanto riguarda il versante dei cittadini, come quelle o peggio di quelle che abbiamo visto dopo l'inizio della guerra in Ucraina, cioè bollette che crescono e difficoltà crescenti? In questo momento dobbiamo essere molto chiari. E l'Europa, anche guardando, diciamo, il comunicato che è uscito dal meeting di ieri informale dei ministri dell'energia, non è chiara sulla gravità della crisi, perché l'Europa sta cercando, diciamo, di spingere in avanti il problema nel futuro, e in questo momento sta dicendo che sostanzialmente l'afflusso di risorse energetiche verso l'Europa, l'approvvigionamento energetico dell'Europa non è in crisi, ma questo non è vero. Le minacce sono davvero molto profonde per i cittadini, per le industrie, per qualsiasi consumatore, e sono addirittura più gravi della crisi del 2022, anche perché questa crisi monta sulla crisi precedente, che non si è ancora risolta. Soprattutto i rischi diventeranno ancora più severi se l'interruzione dei flussi energetici da Hormuz dovesse continuare. La guerra potrebbe finire domani, ma non abbiamo alcuna certezza che il ripristino dei flussi energetici da Hormuz tornerà come ai livelli precedenti il conflitto. E questo anche perché l'amministrazione Trump lo ha detto chiaramente: il loro interesse in questo momento è terminare la guerra, e il termine della guerra, la fine del conflitto con l'Iran, non è legata, e su questo è stato esplicita la Casa Bianca, alla risoluzione della continuità dei flussi energetici da Hormuz. Quindi l'Iran in questo momento è in grado di esercitare un'influenza sui mercati energetici globali senza precedenti nella storia, ed è difficile che un regime come quello iraniano voglia autonomamente, unilateralmente lasciare il controllo di questo snodo commerciale importantissimo senza avere dall'altra parte una compensazione di tipo politico ed economico. Ed è facile invece immaginare che l'Iran voglia invece accrescere, solidificare e cementare questo proprio controllo dello stretto di Hormuz, con conseguenze gravissime per i mercati energetici e ovviamente per i consumatori europei.